Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 15 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo come ha già fatto fino a poco fa anche Oscar Giannino, trattando il tema più sulla la Sicilia in senso lato, dicevo parleremo anche dell'inchiesta che coinvolge di nuovo la Sicilia. Il titolo potrebbe essere, devo ringraziare la redazione di Focus Economia, piovono tangenti ma non c'è acqua, nel senso che, lo so, è una battuta ma mica tanto, è proprio vero. Piovono tangenti per quello che riguarda gli appalti della rete ferroviaria, ma soprattutto del corpo forestale, ma non c'è acqua, nel senso che a Messina, come ricordava Oscar Giannino poco fa, se non ci fosse stato un tweet di Fiorello, colpa anche nostra, quindi colpa anche dei giornalisti della stampa, nessuno si era accorto che la città di Messina nel 2015 è senza acqua da 6 giorni, che è una cosa normale, no? Ora, con quello che costa la regione autonoma siciliana, noi sapete che facciamo una rubrica, purtroppo, e domani tornerà, sugli sprechi della pubblica amministrazione. Io sarei anche a questo punto per eliminare, ma si può commissariare una regione? Penso che si possa commissariare una regione, cioè non è accettabile quello che leggiamo ogni giorno e arriva quasi sempre, o meglio, non solo, ma quasi sempre da lì, e potrei allargarmi anche ad altre regioni. Comunque ne parleremo, partiremo subito però con la finanza, intesa, come ricordava Salvatore Padula, sia come Deutsche Bank. Perché, voglio dire, la domanda viene spontanea, ma dove erano, come li hanno fatti gli stress test su Deutsche Bank? Lo dico con massimo rispetto, perché già in tempi non sospetti, quando vedemmo che gli stress test avevano bocciato alcune banche italiane, ma non per esempio Deutsche Bank, molti nostri ospiti si chiesero come mai, nel senso che era già noto una situazione abbastanza delicata, necessità di aumento di capitale e quant'altro. I nodi vengono al pettine anche in questo caso, ricordava giustamente Salvatore Padula che Deutsche Bank ha un bilancio pesantemente negativo anche perché ha dovuto fare gli accantonamenti per via della vicenda Volkswagen, ma non diamo la colpa anche per Deutsche Bank alle centraline truccate, per favore. La perdita record nel terzo trimestre dell'anno della principale banca tedesca, che già ricevette degli aiuti non indifferenti quando scoppiò la crisi, comunque 6 miliardi di euro in rosso contro i 94 milioni di rosso del terzo trimestre dell'anno scorso. Maxi perdita, va detto, preannunciata da Deutsche Bank, perché che ha annunciato il licenziamento di 9.000 dipendenti su 100.000 e il taglio in realtà dell'organico sale a 26.000 persone, considerando anche le divisioni che verranno cedute. Non è un bel periodo per la Germania, nel senso che tra Volkswagen a settembre e Deutsche Bank adesso, il mito tedesco, lo dico con massimo rispetto, in questo caso non c'è polemica, e lo vediamo anche nell'appannarsi, se mi permettete un commento, della cosiddetta leadership tedesca a livello europeo, è silenziosissimo. Schäuble non parla più, da quando la Grecia si è salvata non parla più, ma anche Angela Merkel è in difficoltà più sulla vicenda migranti e la CDU bavarese che per queste vicende. Però è chiaro che se tu hai il primo gruppo automobilistico, primo secondo al mondo, il primo gruppo tedesco che fa, come diceva Del Rio oggi, lo ascolteremo più avanti, fa la più grande truffa mai organizzata a danno dei consumatori, e poi a ottobre hai la più grande banca tedesca, una delle più grandi banche dell'area euro, che perde senza truffa, per carità, 6 miliardi di euro, da far impallidire il Monte dei Paschi. Beh, insomma, è chiaro che mantenere in piedi la differenza, la superiorità tedesca diventa sempre più difficile. Parleremo però anche di una banca molto più piccola, la Popolare di Spoleto, quella che, pur essendo piccola, ha trascinato in mezzo nell'inchiesta il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Oggi ci sono sviluppi che non dico che vadano a scagionare Visco, però fanno capire come dietro il ricorso degli azionisti, le ipotesi della magistratura, è che questo ricorso degli azionisti contrari all'operazione che vide cedere la Banca Popolare di Spoleto al Banco di Desio erano stati, tra virgolette, secondo la procura, telecomandati, se posso usare il termine, dalla NIT Holdings, società finanziaria domiciliata ad Hong Kong. L'accusa, a questo punto, ci sono anche delle perquisizioni nelle abitazioni di alcuni dirigenti di NIT Holdings, il reato è manipolazione di mercato e calunnia. Cerchiamo di chiarire perché c'è anche un altro capo di accusa che riguarda la diffusione di notizie false e idonee ad alterare il prezzo delle azioni in Monte dei Paschi. NIT Holdings infatti in passato aveva manifestato anche interesse per il Monte dei Paschi di Siena. Da quello che si capisce, ma poi ne parliamo subito in maniera abbastanza ampia, NIT Holdings aveva convinto, aveva fatto pressione su alcuni azionisti affinché facessero questi ricorsi, e poi nel caso del Monte dei Paschi speculava invece sul valore del titolo. Vi arriveremo, giornata oggi di focus economia giudiziaria, potremmo cambiare il tema, tra Sicilia, Spoleto, Deutsche Bank non c'è nulla di giudiziario, però quantomeno di cattiva gestione sì. Mi chiedo cosa sarebbe successo anche in questo caso se 6 miliardi di perdite li avesse fatti una banca greca o una banca portoghese o una banca spagnola o una banca italiana. Invece in Germania questo passa un po' più sotto silenzio, lo dico con massimo rispetto, però vedi che affari primi della classe ogni tanto si pestano delle cose, insomma, che assomigliano vagamente alla cioccolata. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Sapere dei forestali, adesso vi do il dato sui forestali in Sicilia, vado a memoria, però se non ricordo male erano quelli calabresi che erano il doppio di quelli canadesi, contando pure, come ci scrisse un ascoltatore, l'orso Yogi, ma non va molto distante il dato della Sicilia, sono 28.000 forestali, da martedì 24.000. qui si tratta non del corpo forestale, quello nazionale, dei forestali regionali. Dicevo 28.000 sono sospesi per assenza di risorse, e la Sicilia, lo ricordo, è in parte anche paralizzata dalla protesta dei forestali, la regione non ha i soldi per pagarli e gli operatori rischiano di non poter completare le giornate. Comunque i forestali siciliani costano ogni giorno più di 1.400.000 euro, i lavoratori dell'antincendio 380.000 euro, 1.800.000 euro al giorno è il costo dei forestali in Sicilia. Ripeto, sono il doppio del Canada, orso Yogi incluso, il Canada qualche foresta in più, con massimo rispetto per le Madonie e per le Ebrodi, qualche foresta in più rispetto alla Sicilia il Canada ce l'ha e ne ha la metà. La borsa fiammata sul titolo Telecom Italia, in questo momento il titolo sta guadagnando l'8,20%, ne parleremo, tra l'altro il numero uno patuano è qua, è arrivato poco fa proprio nella sede sulle 24 ore per un convegno, adesso vedremo anche alcune dichiarazioni. Yux Net-a-Porter più 1,31%, Ferragamo più 0,50%, fronte opposto invece Steel Microelectronics perde il 5%, Saipem il 4,40%, Banco Popolare il 3,70%, Ubibanca meno 3,60% come Monte dei Paschi, il 3,40% lo perde la Popolare Emilia Romagna, il 2,60% il calo della Pop Milano e di Enel, il 2,5% quello di Intesa San Paolo, il 2% lo perde Campari. Ancora meno 1,80% Finmeccanica, meno 1,80% il calo anche di Unipolsai, euro a quota 1,09 sul dollaro. Il dollaro ieri sera si era un po' rafforzato dopo le parole di Janet Yellen, che contrariamente alle previsioni ha fatto capire che a dicembre potrebbe iniziare la manovra sui tassi di interesse. A proposito di economia americana, oggi è uscito il dato sul PIL statunitense che è in linea con le attese, però è un dato leggermente più basso, nel senso più 1,5%, un leggero rallentamento dovuto alla forza del dollaro che pesa sulle esportazioni, i consumi tengono negli Stati Uniti più 3,2%, e tutti gli economisti si attendono che siano proprio i consumi a sostenere la ripresa dei prossimi mesi. La Casa Bianca in una nota ha fatto sapere che sulla leggera frenata del PIL americano pesa anche il rallentamento dell'economia globale. Non ho dato gli indici, avete ragione, -1,30% Milano, -0,40% Parigi, -0,50% Francoforte, -1% Londra. Allora, arriviamo dopo Volkswagen e però iniziamo subito con Deutsche Bank. Prima un'ultima nota, ieri abbiamo fatto una lunga puntata sui rendimenti in negativo dei BOT a 6 mesi oltre che dei CTZ. C'è un altro minimo record adesso, riguarda i BTP a 5 anni. Pensate che per farsi prestare soldi, lo Stato italiano per farsi prestare soldi a 5 anni offre solo un minimo record di rendimento dei BTP a 5 anni, lo 0,53% lordo, quindi attenzione poi al netto, tasse incluse, lo 0,53%. I BTP a 10 anni sono passati, anche oggi messi in asta, dall'1,82% di rendimento all'1,48%. Vuol dire che praticamente tu presti soldi allo Stato italiano per 10 anni e non ti protegge neanche lontanamente dall'inflazione, nel senso che l'1,48% lordo, non possiamo immaginare che per 10 anni l'inflazione resti all'1,48%, anzi meno se leviamo la parte lorda. Allora, qua vedo tantissimi messaggi già, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo col primo tema, Deutsche Bank e poi la Popolare di Spoleto. Non invito il corrispondente tedesco Tobias Piller, sarebbe accanimento, sarebbe diciamo marmaldeggiare. Allora, però vedo moltissimi, non riesco a tagliare tre messaggi sulla Sicilia. Qualcuno mi fa notare che il Canada ha anche 5 fusi orari. 5 fusi mi sembrava di meno, però 5 fusi orari. Adesso, questo non vuol dire che per giustificare i forestali siciliani ci inventiamo 5 fusi orari pure in Sicilia, da Catania a Palermo. Ecco, sarebbe il massimo. Ma restiamo sulla Germania. Come si fa a fare 6 miliardi di euro di perdita in un trimestre per una banca? Beh, ci si chiama Deutsche Bank, verrebbe facile la battuta. Fabio Pavesi, è la tua giornata, faremo di te una star, nel senso che oggi tu ti devi occupare sia della Deutsche Bank, sì, sia della Popolare di Spoleto. Non è che ti devi, ti occupi per il giornale, lo fai anche per noi. Partiamo dal pesce grosso, come si dice in inglese. Ora, Deutsche Bank è la più grande banca tedesca. Già quando scoppiò la crisi, parlo del 2008-2009, fu una banca che andò in difficoltà perché aveva molti derivati, adesso la faccio molto breve, e fu aiutata dal governo tedesco senza che vi fossero le accuse, gli scandali che, lo dico con il massimo rispetto, si sono legati al nostro Monte dei Paschi, dove c'è stata dietro anche una truffa vera e propria, perché insomma Mussari e Baldassari sono in company, la compagnia del 5% sono rinviate a giudizio, non è stato solo un errore gestionale. Lì invece vi fu, da quello che abbiamo visto, soprattutto un errore gestionale, cioè troppi derivati in pancia e troppe perdite quando è scoppiata la crisi nel 2008-2009. Detto ciò, la banca viene aiutata dallo Stato tedesco, alla faccia dei dei greci che devono pagare col loro sangue gli errori fatti. Quando c'è da salvare una banca tedesca, Berlino chiude un occhio. Il problema è che adesso Deutsche Bank ha diffuso un altro utile da record in negativo, 6 miliardi e 10 milioni di euro. Come ha fatto? Ma in realtà è molto semplice, sono gli effetti delle cause legali, delle sanzioni per le manipolazioni dei tassi, per le liti con i clienti. Insomma, Deutsche in realtà i ricavi continua a farli, è una banca che fa ricavi per 30 miliardi, quindi evidentemente la perdita è legata a fattori straordinari che sono le avventure, come dire, un po' speculative della banca tedesca, che in realtà è la prima banca europea, forse adesso è la seconda banca europea per dimensioni. noi. Ma potremmo dire, il tema è che Deutsche è convalescente ormai da molti anni e il mercato, come dire, ne è testimone. Se guardiamo un grafico di borsa, Deutsche Bank ha perso il 50% in borsa negli ultimi 2 anni e ai suoi minimi storici, viene valutata dal mercato metà del suo capitale netto, che quindi è una valutazione, come dire, molto a sconto. Evidentemente il mercato non si fida. Deutsche, tanto per dare un esempio, 2008 crisi finanziaria, stress test, il rimprovero che molti hanno fatto a Deutsche è che non aveva capitale, perché la banca aveva 2.000 miliardi di bilancio e aveva capitale per solo 50 miliardi. No, ma io dico, va bene mettere, se non ricordo male, negli stress test non passò, beh, Monte dei Paschi, qualcosa nota, e aiutami tu Fabio, ci fu anche Veneto Banca, sì, e Popolare, sì, di Vicenza. Sulle banche italiane noi continuiamo a dire hanno poco capitale. No, ma andiamo era a vedere... giusto, però insomma, quella volta di tutti ci sorprendemmo, ma come fai a non chiedere un aumento di capitale, certo, anche alla Deutsche Bank, che adesso infatti lo deve fare. Ma infatti la Deutsche è stata costretta negli ultimi 3 anni a fare ben 2 aumenti di capitale, mm-hmm, l'azionariato sono entrati soggetti stranieri, però ripeto, hanno un po' messo a posto i conti, perché il patrimonio mm-hmm è salito, oggi siamo a circa 70 miliardi e l'attivo è sceso a 1700, mm-hmm, quindi si sono dimagriti, però faccio solo a mo' di esempio, il tema qual è? È che la banca Deutsche ha rischio di credito per solo 300 miliardi, cioè dà credito per meno della metà di Banca Intesa ed è grande 4 volte. Tutto il resto del bilancio è fatto da attività finanziarie, perché è una banca d'affari, e quindi derivati. E pensate che tutt'oggi, a distanza di 7 anni dalla crisi finanziaria, nel bilancio di Deutsche ci sono titoli liquidi, noi li chiamiamo tossici perché non hanno una valutazione di mercato, che valgono ben 30 miliardi su un capitale che è di 70, cioè metà del capitale netto di Deutsche Bank sta in titoli cosiddetti tossici, e sono passati 7 anni dalla crisi finanziaria, cioè quella roba lì non è mai stata smontata, è una sorta di mina inesplosa che sta lì a bilancio, la banca decide che valore dargli, ma nessuno può dire se è il valore corretto. Vabbè, carta su carta. Ho capito, però quando noi diciamo banche italiane in difficoltà, poi però abbiamo questi mostri del credito che in realtà basano la propria attività sull'attività speculativa, tra l'altro le borse sono andate anche molto bene, le obbligazioni pure, quindi questa banca d'affari dovrebbe aver guadagnato molto in questi anni, poi paga tutti gli effetti delle sue pratiche, come dire, un po', come dire. Allora, così rispondo anche a un ascoltatore che mi scrive: ma come che fai a paragonare la Grecia alla Germania? Ma scusatemi, io non ho mai paragonato la Grecia alla Germania, abbiate pazienza, anche perché i greci hanno truccato i conti, i tedeschi hanno truccato i motori, sono due cose diverse, però ho solo detto che dopo 5 anni, dal 2010, che subiamo lezioni su come ci si deve comportare dalla Germania, con arroganza del ministro silente adesso Schäuble, che è scomparso dai radar dell'informazione, parlava una volta al giorno quando c'era la Grecia, e dopo 5 anni in cui l'area euro si è beccata la seconda recessione al mondo, unica tra le economie mondiali grazie alla ricetta tedesca del rigore fine a se stesso, scoprire che, voglio dire, da un lato il colosso tedesco delle automobili ha obiettivamente ingannato i consumatori in maniera mai vista prima, non lo dico io, il ministro Del Rio oggi, le autorità americane ieri, che Deutsche Bank perde 6 miliardi, licenzia 25.000 persone, 9.000 in realtà i dipendenti diretti, non perché abbia sbagliato, abbia prestato troppi soldi alle imprese tedesche, ma perché A, era piena di derivati, B, solo nel 2009 ha dovuto versare agli Stati Uniti multe per 10 miliardi di euro per le pratiche scorrette sulla manipolazione del Libor, ricordate lo scandalo in cui le banche si mettevano d'accordo per diciamo, avere far oscillare come meglio gli conveniva questo tasso di riferimento, per farla molto breve. Poi hai fatto una maxi svalutazione della partecipazione che viene nella banca cinese Xua Xia Bank, va bene, questo ci può stare nella vita, non è che in questo sia una colpa, però, e poi hai anche accantonato altri soldi. Ora, tutto questo ti fa fare una domanda: come mai non sei finita negli stress test? E stare attenti nel dire: qui c'è un'Europa del centro-nord che è tutta pulita, che è tutta corretta, e c'è un'Europa del centro-sud che è tutta sporca. Dopodiché, a chi mi chiede: ma lei gode oggi? Sì, godo, non godo per le disgrazie altrui, certo che una puntata Germania-Sicilia, cioè Deutsche Bank, forestali siciliani, mai me la sarei immaginata. Meteo, pubblicità e poi torniamo in diretta. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ora, chiusa la pagina su Deutsche Bank, Fabio Pavesi si leva la casacca di esperto dei conti della Deutsche Bank. Mi chiedete degli utili. Beh, con questi conti il dividendo, detto Deutsche Bank, che non arriverà fino al 2017. Per cui i 26.000 posti, chiarisco, che mi dice, ma sono 9.000 o 26.000? Sono 9.000 quelli dipendenti diretti su 100.000 complessivi, poi 26.000 se si considerano anche delle divisioni che appartengono a Deutsche Bank, che sono state o saranno cedute. Dicevo, Fabio Pavesi si leva la giacca da esperto di Deutsche Bank e si mette quella da esperto della Popolare di Spoleto. Il salto e il volo è un po' pindarico, ma che cosa è successo? Ricorderete che la settimana scorsa commentammo il registro tra gli indagati del governatore, l'iscrizione al registro degli indagati del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, proprio sulla vicenda della Popolare di Spoleto. Cosa era successo? C'era stato un esposto di alcuni azionisti che si consideravano danneggiati dalla cessione della Popolare di Spoleto al Banco di Desio. E devo dire che Visco ieri, proprio nella giornata mondiale del risparmio, aveva dato un commento apparentemente laconico ma molto pieno, gravido di significato, proprio su questa vicenda. Massima fiducia nella magistratura, ma il nostro operato è corretto. Poche parole sul caso specifico che mi riguarda, emerso nei giorni scorsi. Non è questa ovviamente la sede per parlarne diffusamente, né è questo soprattutto il momento. Vi è un doveroso rispetto dell'azione della magistratura. Voglio solo dire che non ho dubbi nel definire assolutamente legittimo, corretto e accorto l'operato della vigilanza della Banca d'Italia, che svolge con impegno e discrezione il proprio dovere nell'interesse della collettività. Sull'operato della Banca d'Italia, su come procede, su come agisce, mi pare che la conoscenza sia in generale scarsa, frammentaria e spesso distorta. Eppure siamo impegnati a dar conto di quello che facciamo, anche con la relazione sulla gestione e sull'attività della banca, che viene trasmessa ogni anno, è pubblicata, ma viene trasmessa ogni anno al Parlamento e al Governo, come lo richiede la legge. Siamo aperti ai giusti approfondimenti nei luoghi a ciò deputati, senza scorciatoie mediatiche e spettacolari. Questo sulla Spoleto. Faccio notare a Fabio Pavesi che ci stanno scrivendo alcuni ascoltatori che dicono, attenzione, che la Deutsche Bank in pancia ha molti più derivati, questo non lo so, di quanto voi immaginiate. È la Lehman Brothers, vabbè, tutto, manca solo che scoppi una Lehman Brothers in Germania, saremmo veramente... E poi il passaggio successivo cos'è? Che Varoufakis aiuti la Merkel, adesso... no, visto che è ricco, da quanto vedo che lo paga la Rai. Dicevo... sì, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, però non ne fregava niente a nessuno. Ma il vero punto non è quello che ha in pancia, o solo quello che ha in pancia Deutsche Bank, è come mai questi stress test europei vanno a colpire le banche che prestano e le regole europee, le banche che prestano soldi alle imprese, obbligandole a accantonare una marea di soldi. Se non ricordo male, ogni 100 euro, 8 euro accantonati. Sì. 100 euro che presta le imprese, 8 euro accantonati, e premiano le banche che si riempiono di spazzatura, di derivati. E quant'altro, c'è qualcuno che poi non li ritiene spazzatura, ma vabbè, questo è il punto, cioè come hanno fatto gli stress test. Vorrei restare però sulla Spoleto. Che cosa abbiamo scoperto oggi, Fabio, che non dico scagioni perché non faccio il magistrato né conosco le carte dell'inchiesta, ma che apre un altro velo, squarcia un altro velo sulla, e solleva un altro velo, squarcia il velo, è quasi un po' brutale, era quasi da stupro, insomma, sulla vicenda della Spoleto, perché è venuto fuori che questi azionisti, se ho ben capito, che hanno fatto il ricorso, non erano proprio delle verginelle, ma ricevevano delle indicazioni addirittura da Hong Kong. Fabio? Ma sì, il fronte si è spostato. I commissari, anche loro indagati, tre ex commissari, hanno definito nei giorni scorsi l'offerta di questa NIT Holding una vera e propria patacca, senza mezzi termini. Chiamati in causa perché indagati, hanno risposto in modo piccato dicendo: noi questa offerta non l'abbiamo neanche considerata perché l'abbiamo valutata, abbiamo scoperto che l'assegno che avevano depositato era falso. avevano detto che avevano messo 20 miliardi di liquidità disponibili nella filiale di Mosca di Unicredito, interpretato Unicredito, ha detto non sono nostri clienti. E quindi voglio dire, questi si presentano per salvare una banca italiana che bisognava di 130 milioni di aumento di capitale, e si scopre che di fatto non avevano nessuna delle garanzie di sostenibilità finanziaria per entrare nella partita. E finalmente, dico io, qualcuno ha deciso di andare a vedere che cos'è questa NIT Holdings. Cosa cavolo è sta NIT Holdings con sede a Hong Kong? Non c'è nulla, c'è un sito internet, pare che agiscano in molti settori, ma non c'è un bilancio. Ci sono semplicemente due rappresentanti in Italia, tale Rodolfo Varano di Camerino, personaggio su cui, se andate su internet, troverete una ricca serie di aneddotica, cioè? E l'avvocato, ma sì, pare che non paghi gli alimenti alla moglie, insomma. Vabbè, adesso, sono fatti suoi, sono cose di colore, però guarda caso questo Rodolfo Varano di Camerino e l'avvocato Luca Capecchi, che erano gli intermediari italiani, oggi sono stati perquisiti dalla procura, dalla Guardia non di Finanza, moglie, su ordinanza procura di Roma. Allora, qual è il tema? Che i soci, i vecchi soci della Spoleto Credito e Servizi, che era la controllante della banca, si sono sentiti defraudati dall'azione di Banca d'Italia, ma nessuno dice, loro per primi, che quando è arrivata Banca d'Italia, la banca poi di Spoleto era in gravissima difficoltà, veniva da anni di perdite. La stessa controllante, cioè i soci che oggi hanno fatto la denuncia, avevano una situazione a fine 2012, prima del commissariamento, che aveva perdite per 30 milioni di euro di una cooperativa che gestiva la banca. Allora, Banca Italia cosa fa? Dice, la Banca Popolare di Spoleto è in crisi, la sua controllante, che sono poi i soggetti che hanno fatto l'esposto, non ha i soldi per poter garantire il futuro. Noi la commissariamo. La commissaria, e poi viene venduta dai commissari e troviamo un compratore. Arriva questa stranissima offerta di Hong Kong, ovviamente caldeggiata da quelli che poi hanno fatto l'esposto, si scopre, o almeno si scoprirà, e i commissari hanno le carte, hanno fatto a loro volta un esposto alla procura, dicendo questa NIT Holding è una vera e propria patacca. E quindi che oggi questi soci facciano un esposto denuncia contro Banca d'Italia, e più o meno sono gli stessi soci che avevano presentato una sorta di cordata fantasma, solleva insomma quantomeno un minimo di perplessità su questo esposto denuncia contro Banca d'Italia. Perché ripeto, il tema qual è? Loro dicono la Banca Popolare di Spoleto è una banca sana, basta guardare i conti, non era così. Banca d'Italia è arrivata dopo due ispezioni, già nel 2010 era ravvisato. Lì governava la banca tale Giovannino Antonini da 20 anni, un po' come Zonin invece, cioè era il dominus della banca di Spoleto. Banca d'Italia ha fatto capire così non funzionava, perché la banca aveva i conti non in ordine, viene commissariata, e c'è questa sorta di vendetta da parte della cooperativa azionista, sì, che dice non ci sta. Io bene adesso, Rodolfo Varano di Camerino aveva affermato, al di là di quello che fa con la ex moglie, di essere procuratore per l'Italia di NIT Holdings, di aver avanzato un'offerta da 10 sì, miliardi di c'è euro. C'è anche il Monte dei Paschi. Ecco, dopo il traffico però, perché quella del Monte dei Paschi è ancora più bella, nel senso che qua l'accusa è per la Spoleto manipolazione di mercato e calunnia. E calunnia, certo. Per il Monte dei Paschi, se ho ben capito, diffusione di notizie false idonee a alterare il prezzo dell'azione. Cioè certo, tu dici una cosa in modo che l'azione si muove tu, e poi ci speculi sopra. Ci speculi sopra, dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, c'è molta maretta su Telecom, adesso ci arriviamo, perché il titolo si è mosso fortemente, a sorpresa si scopre che si stanno, adesso forse è un po' forte dirlo, ma un tentativo di scalata potrebbe esserci, perché si è scoperto un nuovo socio potenziale di Telecom appena uscito allo scoperto, Javier Niel, c'è chi ipotizza un legame con Vincent Bolloré, che ha l'11% di Telecom Italia. Adesso vi arriveremo. Mentre questo mitico Rodolfo Varano, duca di Camerino, in realtà Fabio Pavesi citava anche il fatto degli alimenti alla moglie, ma interessante, non è solo gossip, perché lui, dicendo non ho una lira, non ho di che mantenere né la moglie né i figli, non pagava gli alimenti. Allora, è strano che uno che non ha una lira per pagare i figli e alla moglie poi lanci un'offerta per la Popolare di Spoleto e per il Monte dei Paschi, dicendo di essere l'emissario di questo fantomatico NIT Holding di Hong Kong. Puzza la cosa tantissimo, tant'è che lui è indagato, appunto. c'è l'ipotesi di reato di manipolazione di mercato e calunnia per la vicenda Spoleto. Qual è l'ipotesi invece e perché si arriva a ipotizzare notizie false idonee ad alterare il mercato nella vicenda Monte dei Paschi? Beh, Fabio, perché assomiglia anche lì su Monte dei Paschi. Lui arriva a dire: faccio un'offerta su Monte dei Paschi per 10 miliardi di euro, che insomma è una cifra colossale, e anche lì si è scoperto che poi, come dire, questi soldi in realtà non esistevano. Su Spoleto è stato appurato, cioè i commissari hanno chiamato Unicredit e Unicredit ha smentito che NT Holding potesse niente, quindi si presume che sia una sorta di bufala colossale, insomma, staremo poi a vedere dagli accertamenti della Guardia di Finanza, evidentemente. Però probabilmente questo fronte nuovo cerca di fare chiarezza su questo esposto di denuncia, quanto sia fondato il fatto che gli Spoletini o questi azionisti siano stati defraudati dal commissariamento. Ripeto, la Spoleto veramente era in grave difficoltà, sì, e senza l'intervento adesso, io dico, va bene tutto, però uno può obiettare che la Banca d'Italia ha visto male, ha visto poco sulla propria vicenda, ma dire che ha fatto adesso così ha fatto male a commissariare una banca già disastrata e che ha fatto male a vendere al Desio, se l'alternativa è una società che ha una sede di facciata a Hong Kong, ma un po' di decenza ogni tanto. Allora, grazie intanto Fabio Pavesi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Adesso andiamo alla borsa. Ma ci andiamo solo come titoli ed indici, poi dopo il GR24 il commento: meno 1% la chiusura nel finale per Milano, meno 0,1% Parigi, meno 0,30% Francoforte, meno 0,60% Londra. Telecom Italia, come dicevo, sulle voci di quanto sta emergendo sulla compagine azionaria, guadagna l'8,70%, il mercato scommette che lì si stia muovendo qualcosa di pesantissimo e c'è chi ipotizza addirittura una scalata silenziosa. Ne parliamo dopo il GR. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anchenoidisabili@radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. 183 giorni, 141 padiglioni, milioni di visitatori da tutto il mondo. Segui lo speciale di Radio 24 su Expo Milano 2015 con i nostri inviati e le voci dei protagonisti. Una diretta di 2 ore per vivere da vicino la giornata di chiusura dell'Esposizione Universale e tirare le somme dei 6 mesi più discussi del 2015. Sabato 31 dalle 18 alle 20 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di borse e soprattutto in questo momento di Telecom Italia, che ha chiuso con un rialzo molto forte all'8,70%, alla luce anche delle notizie che sono arrivate nel frattempo, e cioè di nuovi soci, o meglio della scoperta che esistono anche altri soci oltre a Bolloré, che è all'11%. Javier Nael è un nuovo socio potenziale di Telecom, appena uscito allo scoperto. Flavia Carletti di Radio Coro di Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo proprio da Telecom Italia. Sì, appunto, Telecom oggi è stata la migliore tra le blue chip milanesi, anche una delle migliori del listino, e ha iniziato a salire quando sono uscite queste indiscrezioni stampa su questo nuovo socio che sarebbe venuto allo scoperto. Poi sono state confermate da Consob, che ha precisato che il fondatore dell'internet provider francese Iliad ha potenzialmente l'11,2% del capitale con diritto di voto di Telecom Italia. In particolare ha il 6,1% derivante scaturite da contratti di opzione call che hanno diverse date di regolamento tra il 21 giugno 2016 e il 21 settembre 2017, più un altro potenziale 5,1% sempre con diritto di voto che lo possederebbe tramite derivati, anche questi che comunque sono posizioni lunghe, quindi non sono ancora azioni direttamente, però potenzialmente possono trasformarsi in azioni. Esatto. Sì, però se io faccio due conti, queste potenziali azioni, cioè questi diritti che possono trasformarsi in azioni che valgono in tutto l'11,2, poi c'è Bolloré che ha l'11%. Ora qui la domanda che tutti si faranno è quanto, essendo tutti e due francesi, quale sia il rapporto tra Javier Nail e Bolloré. Patuano poco fa, proprio qui nella sede del Sole 24 Ore, ha escluso, ha detto non penso che vi sia un legame, anche perché se vi fosse un legame, diciamo, vorrebbe dire avere una nuova maggioranza relativa di riferimento dentro Telecom. Sì, esattamente, perché comunque le due partecipazioni, quella di Vivendi e quella potenziale di Nail, potrebbero superare il 30% e farebbe scattare l'obbligo di OPA. La Consob ha detto che sta analizzando la situazione, appunto Patuano ha detto di non credere in una liaison tra i due. Fonti vicine dell'entourage di Bolloré hanno fatto sapere che non c'è alcuna relazione tra di loro, però il fatto che siano francesi ha fatto scattare subito tutte le ipotesi di questo tipo, e quindi infatti oggi il titolo è salito, tanto che è stato scambiato il 2,4% del capitale in una sola seduta. Ora bisognerà vedere. Cioè, non tutti credono che non vi sia un legame tra i due, ma soprattutto che questa sia un'operazione, che siano due operazioni così distinte che nulla c'entrano. In effetti, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, nel senso che immaginare che proprio dalla Francia, Javier Nil è il quarto operatore di telefonia mobile in Francia, può essere, perché ci scrivono gli ascoltatori varie informazioni, però immaginare che tutto questo interesse francese su Telecom sia completamente scollegato, certo, ci vuole anche un po' di buona volontà nel pensare questo. Se si ha la cattiva volontà, si pensa invece che le due operazioni non siano così scollegate e che dentro Telecom Italia si stia creando, perché tu ricordavi giustamente che sono diritti, sono opzioni per da esercitarsi nel caso per avere le azioni, si stia creando una maggioranza più o meno silenziosa francese. Questa è l'ipotesi speculativa. Per quello che riguarda gli altri titoli invece, ST Microelectronics ha perso il 4,75%. Sì, è stato il peggiore tra le blue chip milanesi dopo la pubblicazione dei conti che sono arrivati questa mattina prima dell'apertura del mercato. Quello che ha deluso soprattutto è le prospettive deboli per il quarto trimestre e anche il rinvio delle decisioni strategiche riguardanti la sorte del segmento sui prodotti digitali. Tutti si aspettavano che potessero arrivare delle indicazioni, oggi invece sono state rimandate e questo non è piaciuto agli operatori. Ecco qua, visto che parlavamo di Javier Nil, ha 48 anni, ha attività per un valore di 8 miliardi di euro, è noto per aver fondato ad essere maggiore azionista di Iliad, co-proprietario di Monaco Telecom e del quotidiano Le Monde. Un miliardario atipico, lo definisce la stampa francese, poche interviste, aria da bambino, figlio della scuola pubblica, un enfant prodige. Quando era ancora al liceo ha creato Minintel, la società informatica che offriva servizi alle imprese, poi si è specializzato anche in un servizio Minintel Rose dedicato ai peep show e ai sexy shop. Comunque la cosa importante è che ha creato nel 99 Free, che in questo momento è il service provider quarto operatore in Francia. Nel 2012 ha lanciato Free Mobile, rivoluzionando la telefonia in Francia, e poi ha investito anche nel settore dell'istruzione. Questo per chiudere con il profilo di Javier Nil. Andiamo avanti con i titoli, diciamo, di ST Microelectronics. Deboli oggi tutte le popolari: Banca Popolare meno 4%, UbiBanca meno 3,70%, Monte dei Paschi meno 3,5%, Pop Emilia Romagna meno 3%, Pop Milano meno 2,90%. Sì, le banche diciamo hanno risentito della debolezza un po' di tutto il settore europeo, che è stato ha iniziato a essere penalizzato con la pubblicazione dei conti di Deutsche Bank, che ha perso quasi il 7% alla borsa di Francoforte e diciamo ha fatto quindi vendere un po' tutto il comparto. Non ci sono stati motivi legati ai titoli italiani in particolare, ma piuttosto un movimento a livello europeo. Sì, deboli tutti a livello europeo, mentre su Saipem, dopo il botto di ieri, oggi realizzi meno 4%. Eni invece cede in borsa, ma non solo su Saipem, meno 1,20%, c'è un po' di delusione sul terzo trimestre. Il prezzo del petrolio basso ha portato in rosso i conti di Eni per quasi un miliardo, 950 milioni di euro. Flavia. Sì, esattamente questo. Eni alla fine ha chiuso all'1,18%, anzi limitando i danni rispetto a quello che erano stati i minimi della seduta, è risalito leggermente. Comunque, diciamo, oggi è stata una giornata negativa un po' per tutto il settore dell'energia in Europa. Eni poi alla fine risentiva appunto anche dei suoi conti, anche se i commenti in generale sono stati abbastanza positivi. Il problema è stato piuttosto le prospettive future, poi questo prezzo comunque del petrolio che rimane debole, che ha appesantito i conti. Ancora chiudiamo con altri titoli, oltre a Saipem e alle banche citiamo anche Unicredit -2,20%, Enel -2,20%, Campari -2%, Unipol -1,90%. Fronte opposto migliori e peggiori, Sintesi +17%, Mondo TV +11,20%, Alcatel Lucent +10,90%, Nokia +10,30%, e poi Telecom Italia, di cui abbiamo ampiamente detto. Invece tra chi cala di più in assoluto, Klabo -15%, Italia Independent -9,35%, Deutsche Bank, di cui abbiamo parlato diffusamente, -7%. Alcuni ascoltatori ci dicono: ma come mai se uno ha l'11 e l'altro ha opzioni per arrivare fino all'11,2% scatterebbe l'obbligo di OPA? Lo ha chiarito la Consob in una nota: per un gruppo come Telecom l'obbligo di offerta pubblica di acquisto a tutti gli azionisti sorge al superamento della soglia del 25%, e quindi i due ci andrebbero vicinissimi. Bisogna capire quante azioni hanno, sarebbero al 22%. Fermo restando che si tratta di opzioni. Grazie a Flavia Carletti. Traffico e poi la Sicilia, il titolo che abbiamo dato, lo ricordo: piovono tangenti, ma Messina è senza acqua. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. L'imprenditore, lavorare significa dover pagare la tangente, è squallido, si offende l'economia, si offende la libera concorrenza, si offende il mercato, si crea un'economia distorta, e chi paga? Paghiamo tutti, perché sono soldi pubblici poi alla fine, a fronte di risultati che certamente non sono sovente i migliori. Quindi questo fenomeno va contrastato fino in fondo. Forse sarebbe il caso di introdurre qualche innovazione normativa in modo da rendere ancora più produttiva questa forma di contrasto e di lotta, magari, come ha detto il procuratore Davigo, con la istituzione e con la previsione normativa di agenti sotto copertura. Ci siamo ritrovati a venire in possesso di un diverso tipo di libro mastro, a metà tra il libro mastro e la lista della spesa, contenente l'elenco delle somme che un imprenditore aveva versato per determinate sue attività e che aveva avuto cura, così come in altre occasioni altri avevano avuto cura, di riportare, elencando nomi e cifre versate, nomi, date e cifre versate. E allora perché dico deprimente? Dico deprimente perché c'è quasi l'utilizzazione di quei metodi con riferimento, il quasi possiamo anche toglierlo, con riferimento invece a, non alle estorsioni, non al pizzo, ma alla corruzione. Allora, avete ascoltato nell'ordine il questore di Palermo Guido Longo e poi il procuratore di Palermo Francesco Lovoi su quanto è esploso oggi in Sicilia. Arrestato il presidente della rete ferroviaria italiana, Dario Lobosco, per concussione. Avrebbe intascato una tangente da 58.650 euro legata all'appalto per l'acquisto di un sensore per il monitoraggio delle corse dei treni. Misura cautelare anche per due funzionari del Corpo Forestale Siciliano, i 28.000 di cui parlavamo a inizio programma. Al centro dell'inchiesta, ecco perché parlano il procuratore e il questore di Palermo, due distinte vicende: una è relativa a un appalto per l'ammodernamento della rete via radio e l'altra sul sensore. Nell'indagine è coinvolto anche un imprenditore agrigentino, Massimo Campione, titolare di una società di costruzione, e appunto lì è stato trovato il libro mastro delle tangenti a cui faceva riferimento il procuratore Francesco Lovoi. L'imprenditore campione starebbe collaborando con gli inquirenti. Crocetta, che è governatore della Sicilia, dopo aver appreso degli arresti per tangenti, ha dato un mandato alla regione di chiedere la convocazione dell'assemblea di AST per mandare via Lo Bosco e azzerare il CDA. AST è l'azienda siciliana trasporti. Allora, questa è la sintesi estrema. Chiedo di più al collega del Sole 24 Ore, Nino Amadore, in collegamento con noi da Palermo. Buonasera Nino. Buonasera a tutti. Noi l'abbiamo unita perché giornalisticamente era fin troppo facile, anche alla vicenda di Messina Senz'Acqua. È vero che lì è una frana, non c'è, ma una città che sta per quasi sei giorni, 240.000 abitanti, senza acqua per un guasto nel condotto di Fiume Freddo di Sicilia, avvenuto a causa di una frana a Calatabiano, provincia di Catania, però insomma scuole, università, uffici pubblici chiusi per evitare problemi igienico-sanitari. Andiamo però all'inchiesta. Tra l'altro il questore Longo faceva riferimento ad Avigo quando chiese la possibilità di utilizzare agenti sotto copertura, insomma altro che il tema delle intercettazioni. Lo diciamo con molto rispetto al Presidente del Consiglio, qui mi sembra che si deve investigare ancora di più. Come si tengono assieme le due vicende, le due inchieste, Nino? Ma le due vicende sembrano lontane, Sebastiano, ma sostanzialmente mi riconducono, mi fanno pensare al tema della responsabilità, cioè del come si affrontano i fatti pubblici, di come si affrontano le questioni. Il caso della corruzione, del coinvolgimento, diciamo, di Lo Bosco e dei funzionari pubblici è un segnale del percorso che viene seguito nella gestione della cosa pubblica, cioè è una cosa che vorrei buttarvi lì una frase molto siciliana che poi vi tradurrò, è il principio del c'è niente per mia, cioè che cosa c'è per me, che cosa me ne viene in tasca. Il funzionario, il dirigente, l'amministratore pubblico fa un ragionamento esattamente al contrario, non l'interesse pubblico ma l'interesse particolare, il suo, quello della sua tasca, e allora qui scattano diversi meccanismi, perché poi alla fine Messina, che poi come è la mia città, è la città in cui ho studiato, è una città rassegnata, è una città in cui per certi versi i cittadini si sono abituati a tutto, e l'acqua, l'assenza dell'acqua sta facendo esplodere un malessere che è anche il malessere delle inchieste, della corruzione, del come le cose sono state fatte, perché una frana fondamentalmente in una condotta di questa importanza è un piccolo, diciamo, come non vorrei esagerare, però a me fa pensare questo, anche perché ho letto che lì ci sono dei problemi molto seri per il paese di Calatabiano, che è pure piccolo ma insomma è particolare, è come dire il rischio di un piccolo vaionte, ma allora non si, il rischio che questa condotta scoppi e che succeda ancora qualcosa di più grave. E allora io dico, allora io penso, quale atteggiamento, quale comportamento è stato utilizzato per prevenire, per fare in modo che questo, che ciò non avvenisse, perché è questo il punto della vicenda. Quello che emerge nel tenere assieme la vicenda di Messina con quanto invece riguarda l'inchiesta della Procura di Palermo, la cosa impressionante è questo libro mastro delle tangenti. Faccio notare che per ora almeno né il questore né il procuratore, Nino, hanno citato la mafia, nel senso che stanno parlando di corruzione tra imprenditori e funzionari pubblici. Non ho visto per ora riferimenti. In questa inchiesta la mafia c'entra poco. Per il momento è ovvio, è chiaro. Noi dobbiamo attenerci, ma almeno io oggi sono stato alla conferenza stampa, riferimenti a collegamenti con organizzazioni mafiose non ce ne sono, ma se vogliamo, così come ha detto il procuratore, nella patologia di tutto il sistema, questo è una cosa molto molto grave, una ferita che si può aprire fino a dissanguare. Io a me, ragionando così, però senza particolare particolare attenzione mi ha fatto venire in mente il Mariuolo, cioè il Mariuolo Mario Chiesa, no? Cioè da una piccola inchiesta, forse da un fermo di polizia fatto a questo imprenditore, esce fuori il Libromastro e nel Libromastro c'è dentro di tutto. No? Cioè, questo ha praticamente in un foglio Excel fatto i conti e per quest'opera pagava X e pagava tot persone, magari si è fatto i conti su quanto incideva la tangente sul totale della questo lo sappiamo balla. Che poi la balla che le tangenti allora, comunque vadano a riallocare opere che andrebbero fatte sì a carico dei cittadini. Tra l'altro devo dire una cosa, che questo lo citava anche il questore di Palermo, diceva è deprimente vedere come per ogni tipo di attività imprenditoriale vi fosse la tangente dovuta. Rispondo nel ringraziare Nino Amadore, all'ascoltatore che dice bisogna rendere autonome tutte le regioni italiane. No, guardi che il problema è proprio l'opposto, a mio avviso. Bisogna commissariare le regioni. Il federalismo è una cosa troppo seria per essere applicato in questo paese, ormai lo possiamo dire. Da quando esistono alcune regioni funzionano benissimo, per carità, insomma, andiamo a vedere i costi per i contribuenti, però vengono ben amministrate. Altrimenti, ma insomma, il federalismo è una cosa seria, devi avere una grande responsabilità come cittadino, degli amministratori locali sul territorio molto formati, responsabili anche loro, insomma, troppa roba. Quello che stiamo creando è la moltiplicazione dei centri di spesa, basta, lasciamo fare il federalismo ai paesi da questo punto di vista più seri di noi e torniamo ai prefetti, magari in questo caso, visto che prendiamo dalla Sicilia anche i prefetti di ferro. Grazie a Nino Amadore, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Comunque, nonostante la puntata e le notizie di questa puntata, noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica di Focus Economia e anche con il mitico ritorno dell'uccellaccio Giulio Sapelli. Radio 24, la passione si sente.